Spirito di Dio si muove in me, io canto come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come David. Io canto, io canto come David. Io canto, io canto come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io prego come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io prego come David. Io prego come David. Io prego come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lodo come David. Io lodo come David. Io lodo come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lotto come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io lotto come David. Io lotto come David. Io lotto come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io vinco come David. Spirito di Dio si muove in me, io vinco come David. Io vinco come David. Io vinco come David. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io danzo come David. Io danzo come David. Io danzo come David. Io danzo come David. Io danzo come David. Io danzo come David.